Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Siamo pronti, siamo operativi qui dal Groove Master Studio per un'altra puntata del Soundcheck qui su Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera al nostro Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Particolarmente effervescente proprio perché siamo collegati con New York City e sento il suono del traffico di New York, che non è un rumore ma è proprio un suono tipico di questa incredibile città, perché collegato con noi via Skype c'è uno dei nostri vocalist preferiti in questo momento e siamo collegati con lui proprio per anticipare questo incredibile concerto che terrà a Milano esattamente mercoledì prossimo 30 settembre al Blue Note. E al Blue Note noi attendiamo l'arrivo di un nostro amico, Sashal Vazandani. Sashal, are you doing? Welcome at the sound check. Thank you for having me, JJ. What a pleasure. Yeah, it's a pleasure for me. So tell me where you are. Dimmi esattamente dove sei. In New York, where? Yeah, I'm in Brooklyn, in my home city of Brooklyn. And there's, you can hear the noise of the streets. There's the new buildings coming up. There's the construction. There's the people everywhere. Eh sì. It's a little crazy. Sì, c'è il tipico suono di New York e soprattutto il suono di Brooklyn, che in questo momento è uno dei quartieri più attivi anche da un punto di vista musicale. So, la prima cosa, Sashal, io ti voglio fare i complimenti. I want to say you... So my congratulations, my compliments for the beautiful production, Slow Motion Miracles, fantastic album. You are a jazz vocalist, but this album is going ahead. What do you think? Yeah, that's what I think. It's about a new direction, a new sounds, but also being true to who you are, something honest and pure. Mm-hmm. Sì, è un disco naturalmente con un background jazz, ma è un disco che guarda avanti, è una nuova direzione, ma è anche un disco puro, racconta la verità. Because you are also, okay, a fantastic jazz vocalist of the new generation, but absolutely old school, è un vocalist della nuova generazione, ma old school nell'approccio. But I think that I like a lot your songwriting. Mi piace come scrivi. Thank you so much. Yeah, you know, for me it's like I love the direction. I love the bridge. I love coming from somewhere, a history. I have some history in jazz, but I also want to go somewhere. I want to take it forward, 2015, 16, 17. And it's very important to me to do both, to celebrate where I come from as a true lover of jazz music in all its purity, mm-hmm. and also celebrate some of that purity moving forward. And find new forms of expression within jazz. Eh sì, naturalmente la cosa che gli piace da musicista contemporaneo che vive la musica al 100%, gli piace rispettare le tradizioni del jazz, che è la musica che ha sempre amato, ma guardare avanti e quindi avere un occhio al futuro con nuove composizioni che raccontano le sue storie. Questo lo fa molto bene. I think that I want to start with the music, dear Sashal, and I want to introduce to our audience that I'm sure they know, che già il nostro pubblico conosce bene, Sashal, il brano che apre Slow Motion Miracles, intitolato No More Tears, non più lacrime, No More Tears. Why? Why? Yes. Because you know, you shouldn't cry anymore. Even if you love the people that leave you, there is, you know, you have to move on. Sì, non più lacrime, perché bisogna intanto superare i brutti momenti, bisogna conoscere la gente, quindi questo è un augurio. Sashal Vazandani, ovvero Sashal, No More Tears al Soundcheck di Radio 24. But please forgive me, darling, no more tears. Still on my mind. wander straight someday, I promise. You just gotta give me a little time, but there will be no more tears. Sì, questo è il suono di Sashol qui al Soundcheck di Radio 24, e quello che sentite in sottofondo è il suono di New York, perché Sashol Vasandhani è collegato con noi esattamente da Brooklyn. E volevo chiedere a Sashol il suo rapporto con New York e con la musica di New York. So what's your relation with New York and the music in New York right now? What's my relation to what? With New York City and the music from New York City. Yeah, that's a great question. You know, like, I moved to New York to be inspired, and it's every day I'm inspired by something in the city. Maybe it's the musicians, the fantastic jazz musicians, also the fantastic African musicians, R&B musicians, rock musicians. Yeah, the best musicians in the world. Yeah, everybody lives or visits here. And it's beautiful for me to experience it. Also the art and the architecture, mm-hmm. and the people, just their passion, even for business, you know. There's a lot of passionate people here. It's inspiring. Sì, a New York c'è grande passione, ci sono grandissimi musicisti che vivono anche per il cibo, why not? But when you'll be in Italy, we talk about food, eh? Oh, I hope so. Sì, quando sarà in Italia, perché lo abbiamo detto, sarà in concerto a Milano, capirà quando si parla di cibo qual è la capitale nel mondo, no? Qual è la differenza? Qual è la differenza? Comunque New York è una città che ha regalato a Sashol momenti di grande ispirazione che gli ha dato poi la forza di produrre dei dischi bellissimi. Il brano che vi voglio presentare adesso, per farvi capire anche il suo background assolutamente jazz, si intitola The Very Thought of You, uno standard rivisitato da questa grande voce contemporanea, Sashol Vasandhani al Soundcheck. The very thought of you, and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king. And foolish though it may seem, to me that's everything. Soundcheck. Il suono della musica. When you go, all the lights leave my soul. Till you find me, heaven's eyes, I'm alright. Your goodbye, temporary, and even your voice, soft and kind. Like the dawn, just a whisper, it's telling me I should breathe. You've returned, and you'll stay. Sweetest sound, endless cruel bitter city. Your voice is the sweetest sound in this cruel, cruel bitter city. But the moon pass us by here in the afternoon sun. Of my life has begun. Light in your eyes is as soft and as kind as the moon. Oh, the moon. On the horizon, I hope you'll come back to me soon. Come soon, beyond the shore, it's the brightest noon, where I am, light is fading, I'm fading, you belong with me, so come back soon, let me see you. Let me love you. Marshall è collegato con noi da Brooklyn, New York City, per presentare Slow Motion Miracles, ma anche per anticipare questo concerto che farà mercoledì prossimo, 30 settembre, al Blue Note di Milano. Da non perdere, la prima volta di Sashal Vasandhani in Italia. So is your first time in Italy with the gig in Milan at the Blue Note? Yeah, you know, it's my first time in Milan in my life, so I'm so excited. I did perform last year in Ferrara. Mm-hmm. With another group with Vincent Herring and Joris Dudley on the drums. It was their group called Soul Jazz Alliance. So we did go in 2014 to Ferrara, which I really liked. Sì. But I've never been to Milan and I've never performed in Italy leading my own group. Senti, allora sei stato a Ferrara un paio di anni fa, finalmente arrivi a Milano, quindi è la prima volta con la nuova band per presentare Slow Motion Miracles. Mi pare che my friend Francesco Tromba, he wanna do a question for you. Yeah, we're gonna play with you on Wednesday in Milan. Sure, it's my band, I'm very excited. The drummer has been playing with me about a year or two years. Mm. And his name is Jeremy Dutton. The piano player is a young kind of wunderkind, you could say. Yeah. He's very new to our band, but he's really doing such a fantastic job because he's played with so many people already, from Questlove to Robert Glasper to Stephon Harris. Yeah. His name is James Francis. And the bass player is one of the funkiest bass players I know. He plays with me now 2 or 3 years, and he knows, he played on the record, and he also plays with Blood, Sweat and Tears. Oh, his fantastic. Name is Buster Hemphill. Sì, so it's going to be a really great band. I think so. Quindi una band contemporanea, musicisti che vengono del jazz ma hanno fatto anche la storia dell'hip hop e del funk degli ultimi anni suonando con i grandi protagonisti. So what kind of music do you want to play? What kind of compositions? Slow Motion Miracles, but also jazz standards and funk. What do you want to do? All of that. You know, I want to take people on a journey, and the journey starts with you know, the voice. The journey starts and ends with the voice. My voice singing these songs. I like to make every composition my own, whether it's really my own, like a song, like you said, Afternoon Sun, yeah, or Marie or something, or a standard, like Very Thought of You. And I want people to hear that in the storytelling. And then the band will play so they have high energy. They go from different styles and they solo a little bit. And we have a lot of fun together. Eh sì, si divertiranno insieme per proporre tutto il panorama sonoro che Sacha Alvazandani ci può proporre, da jazz standards, il suono classico, ma anche qualcosa di contemporaneo e naturalmente il repertorio che ormai si porta dietro da un po' di anni. Allora, one of your collaboration last year was with the beautiful and the wonderful and the great Shayna Steele. So tell me about this friendship and about Can't Let You Go. Dimmi qualcosa di Shayna Steele e del brano che hanno fatto insieme. Shayna Steele is a beautiful human being, mm-hmm. A dear friend of mine. Yeah. I love her like a sister, and she asked me to sing and write on one of her songs, and I was just so happy to. Eh sì, è stato molto felice di collaborare con Shayna Steele, che è una persona bellissima, la considera una sorella praticamente, e quindi qui al soundcheck Sacha con Shayna Steele in Can't Let You Go dall'album Rise. I can't see all that's left behind me. Shadow is the only thing from yesterday. On this journey the pathway leads to unfamiliar territory, a traveler on my way. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. And we don't stop till the sunlight. We fly away. And we don't stop till the dark night. Un altro brano splendido da Slow Motion Miracles, altro brano scritto da Satchel intitolato Cover the Water, e purtroppo siamo quasi ai saluti, mio caro Francesco Tromba. Vorrei però ricordare l'appuntamento al Blue Note di Milano. Sì, mercoledì 30 settembre alle 21 ci sarà appunto il concerto di Sacha Alvazandani. Assolutamente da non perdere, ma vorrei chiudere in bellezza e tra l'altro facendo anche una domanda a Sacha Alvazandani, perché fra le tante collaborazioni avute ce n'è una molto forte, no? Forse uno dei dischi più belli degli ultimi anni per quel che riguarda il jazz contemporaneo, che è Live Forum del pianista Gerald Clayton. Ed è molto carina questa cosa, perché a few months ago, pochi mesi fa, sono stato a New York City e ho incontrato Sacha Alvazandani al Metzroff, un bellissimo jazz club, al gig di Gerald Clayton in duetto. So I saw you at Gerald Clayton gig in New York City a few months ago, and sì. Tell me about your collaboration with this wonderful musician. Yeah, Gerald is a beautiful musician, and I'm so happy to be, you know, a friend of his and a collaborator. In fact, just this week we did a duos at Mesro, he and I. I know, I saw. And it was beautiful because, you know, like we say, we do everything in our own style. Maybe we do a standard that, you know, like, I don't know, Darn That Dream or a blues. Yeah. Or maybe we do one of his songs like Dusk Baby, or yeah. One of my songs like No More Tears. And we do it all in our own style. So when we have the duo, there's a lot of fun and a lot of freedom to do what we need to do and make it our own. And I really love how simple that can be and how open that can be. Sì. And it takes a special musician, and Gerald is one of those special musicians. Eh sì, Gerald Clayton è un musicista speciale, e quando hanno suonato questa settimana in duetto al Mesgrove, questo bellissimo jazz club di New York, hanno suonato un repertorio vario, composizioni di Sacha, quelle di Gerald Clayton o blues o standard jazz, però alla fine viene fuori musica originale, perché suonano nel loro stile, ed è quello che farà Sacha Alvazandani al Blue Note di Milano mercoledì prossimo 30 settembre. Ci vediamo tutti lì per applaudire e poi personalmente per abbracciare uno dei protagonisti dell'attuale scena musicale newyorkese. Sachal, you know I love your music, I love your slow motion miracles, and I love the song, la canzone che ha cantato per me, Say No, I'm doing the mix of the song we did together. Sto mixando questo brano che abbiamo fatto insieme. Oh, fantastic, man. I'm excited to hear it. Assolutamente. Ciao, Sachal. See you in Milano. Thank you. Grazie. Grazie a te. Si intitola Dusk Baby, questo brano scritto da Gerald Clayton, e chiudiamo così il soundcheck di Radio 24 e ci vediamo a Milano mercoledì. Ciao, Sachal. Ciao. Thank you. You arrived, a siren for a song. I found your eyes alive with summer light. Love was born at dawn, not quite sun, not quite the moon. So intense at dusk, but daylight comes too soon.